Brava, uno più bello che l'altro, no, ma docile neanche. Brava, brava. Hai chiesto i loro nomi? No, non li ho No. ancora chiesti. È Gliene che schifo chiediamo, siamo importante, curiosi. voglio saperlo i Bravo, tuoi nomi, bravo. voglio saperli. Io mi chiamo Wissal. Col che chi è? Wissal. Io sono nata solo con nomi. Ma scusa, Spontanea, è ho spontanea. mai sentito in vita mia, non è Nome Maria straniero. Anna o Tobia, no, che non ti conosco. È perché ho un nome straniero. Sì, ho Vengo capito. dal Marocco. Ah, Sì, lei è del Marocco, sono stata sì. Sì, 2 o 3 volte in Marocco, questa è davvero? cara. Piacere. E allora ti piace l'Italia? Sì, mi trovo bene. Ti trovi bene, ma sei Sì, qua sì. anche di lavoro o solo di passaggio? No, sono qui, cioè vivo qui da 11 anni. Ah sì? Sì. Madonna, ti sei italiana Sì, come me, non so. ormai. Siete tutte di dove siete? Mi dispiazzo. Di Spiazzo? Ho fatto tutte le scuole a Spiazzo. Sono sempre stata a Spiazzo fino a 15 anni, dopo ci siamo trasferiti qua. E mi chiamo Conosco tutti. Melanie. Ti chiami Mary. Melanie. Ma sei figlia di Spiazzoli o di Di chi Mortaso. rendi Di forte? Mortaso. Ah? Di Mortaso. Allora, io mi chiamo Lorenzo e vengo da Storo e sono italiano. Sono un italiano vero. Vieni da me. Ma guarda che bella compagnia. Porca Mi sta miseria, mi lasciando piace uscire proprio. portate. Sì. Ma come Come mai si siete lì con entra? quel bagaglio lì, ma? Perché stiamo facendo un Ah, per progetto. Le voci. registrare. Sì. Non le parole, no? Le Ah. voci solo. Sì, solo le voci. Ma guarda che belle materie che chi viene a bere il culato, non si venati a scuarli fa. Ma che bella sorpresa ci avete fatto. Sì. E noi ringraziamo voi. Non si è mai Bravi, però. imparato Vedete, avete abbastanza. portato un regalo di Mai. Santa Lucia. Penso che, Bene. che possiamo fargli un applauso. No, a voi. Grazie. No. Grazie, bravo. Un po' svegli, eh? A me piace aggiunto.